Ciao, io ho dei problemi. Bene. Hello? This is Piccardino, party line. Hello? Hai chiamato anche tu un po' forte, Piccardino? Se te lo fico nel culo ti rompo gli addominali. Tutte le frocce dell'Italia. Fatevi infilare da cazzi grossi. Tutte le frocce dell'Italia. Fatevi infilare da cazzi grossi. Voi che ti succo il cazzo. Voi che ti succo il cazzo. Voi che ti succo il cazzo. Voi che ti succo il cazzo. Yeah.